4 mattino. Buongiorno, buongiorno, bentornati in onda 349-238-6666 per i vostri commenti e i vostri messaggi. 24 mattino, abbiamo sentito i fatti del giorno, la rassegna stampa e adesso arriviamo all'intervista con l'ospite che abbiamo annunciato. Allora parliamo ovviamente con il ministro Valeria Fedeli e vi raccontiamo che cosa sta accadendo sulla scuola. Grandi cose annunciate, discusse in queste ore, ma anche grandi polemiche. Si parla del numero chiuso, soprattutto a Milano, dove è nata la polemica. Si parla della riforma dei cicli e quindi buongiorno ministro, buongiorno Valeria Fedeli. C'è? Pronto? Eccola, è il bello della diretta, questo vi dimostra che siamo qui e non c'è niente di confezionato. Allora, dicevamo che la grande questione è ovviamente quella aperta intorno Grazie. Al tema del numero. Eccola qua, buongiorno, buongiorno ministro. Pronto? Eccoci, la sentiamo. Sento malissimo, sento veramente quasi niente. Ah, ecco, adesso mi sente meglio? Molto lontano, proviamo. Allora, la prima cosa... Adesso sì. Ecco, adesso c'è un po' di riverbero, ma ci sentiamo. Allora, buongiorno, torno a salutarla. Buongiorno. E ovviamente ha fatto discutere molto il suo intervento al Forum Ambrosetti e io volevo partire da questa cosa, dalla polemica del giorno. Lei in qualche modo ha cercato di trovare un punto di equilibrio fra la sentenza del TAR che combatte il numero chiuso e il tentativo dell'Università di Milano, in questo caso, di introdurre il numero chiuso. Quale può essere il modo per risolvere questa controversia? Oggi c'è un fondo sul Corriere della Sera di Pane Bianco che difende l'idea del numero chiuso e in qualche modo le lancia anche un appello. Non so se l'ha letto, casomai le ricordo la domanda. Sono appena arrivato in aeroporto. Certo, l'Italia si sveglia adesso. Cioè, dice Pane Bianco, attenzione ministro, perché la scuola e la formazione vanno difesi mantenendo lo standard formativo dell'università. Assolutamente. No, ma io su questo, se Pane Bianco dice questo, io non solo ne sono convinta e non da oggi, ma è una delle tesi che sostengo. Però detto questo, noi dobbiamo sapere un dato, cioè la politica e il paese deve affrontare un dato in modo molto serio. Noi restiamo il paese in Europa con il minor numero, attenzione, sia di diplomati che di laureati. Esatto. Questo è il tema. Allora, io penso che noi dobbiamo assolutamente tornare ad investire nell'università, oltre che nei percorsi formativi, anche qualificando molto, l'abbiamo fatto anche l'istruzione professionale con la delega specifica su quello della buona scuola, ma per stare all'università noi dobbiamo assolutamente allargare la possibilità di partecipare non solo mantenendo la qualità ma innovando sulla didattica per far corrispondere sempre di più non solo le lauree a anche possibilità di sbocchi effettivi richiesti da una società e un'economia della conoscenza, ma proprio per le innovazioni che il mondo e quindi anche la nostra società deve assolutamente affrontare. Quindi io, se Pane Bianco questo ha detto, io sono d'accordo, però attenzione. Questo significa anche in qualche modo non dire di no oggi alle ragioni per cui esiste il numero chiuso, perché le due cose non sono in contraddizione. Allargare, mantenere la qualità, le valutazioni anche sui corsi e sulla qualità degli stessi, cioè l'accreditamento che ci deve essere sui corsi universitari, rimangono, ma non sono in contraddizione con l'allargamento. Servono investimenti, questo sì, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo sapere che su questo dobbiamo puntare. Se mi posso permettere, certo, però distinguerei questa parte di impianto culturale politico su cui è giusto che il paese discuta in modo serio, come è successo anche ieri a Cernobbio, ma come è successo anche nei giorni precedenti. È già aperta da giugno un'interlocuzione mia del ministero con la CRUVI, quindi la rappresentanza dei rettori, e l'apriremo anche con la rappresentanza degli studenti, però questo non va confuso con la sentenza, comunque con le disposizioni del TAR. di cui perché, stiamo ancora ecco, cosa, valutando cosa intende da un punto per di vista questo? Giuridico, se quella sentenza interviene su una caratteristica di attuazione dei decreti ministeriali e della legge Gelmini da parte dell'Università di Milano, quindi se interviene su qualcosa che dobbiamo o che ci porta a cambiare, oppure se semplicemente è l'Università di Milano che ha fatto una sua autonoma interpretazione di numero chiuso. E quindi diciamo lei un tema preferirebbe l'autonomia dell'Università dei cordoni di più larghi? Diciamo così, rispetto allo sbarramento netto del numero chiuso, lei preferirebbe dei cordoni un po' più larghi, delle maglie più larghe per accedere sì, no, all'università? Ma, certo, ma io me lo devo porre il tema, ce lo dobbiamo porre come paese, noi dobbiamo allargare il numero di laureati, non solo di iscritti, il numero di laureati, sapendo che questo non deve assolutamente andare a discapito della qualità formativa, ma questo è anche a tutela degli studenti oltre che del paese. Sempre per citarle Panebianco, le fa un rimprovero, dice non è vero che servono più laureati, occorrono più laureati... No, citando dice che non ci servono. No, dice la ministra Fedeli dice che servono più laureati. In realtà non è così, dice lui, sto leggendo. Occorrono più laureati, ma solo nelle materie scientifiche. Non dobbiamo dare l'illusione della formazione umanistica. E qui arriviamo a un altro punto, guardi, di un dibattito che è largo, che è esteso, che si fa nell'università, che si fa nel mondo dell'economia e soprattutto nel mondo dell'innovazione, che riguarda trasversalmente tutti. In realtà invece dal mondo reale in cambiamento e che ha bisogno di innovazione per restare, per avere una crescita effettivamente sostenibile, ci viene esattamente anche chiesto di innovare sulla didattica. Servono sempre più competenze anche trasversali. Per esempio, uno degli errori che non dobbiamo commettere proprio noi è quello di pensare che dobbiamo superare le radici culturali, anche se vanno anche lì innovate, della nostra cultura umanistica. Proprio questo ci viene anche da chi si occupa davvero di innovazione e ricerca dentro anche ai centri più qualificati. Di questo anche abbiamo discusso. Quindi bene, anche qui Panebianco è legittimo ovviamente la sua opinione, capisco anche la sua preoccupazione. Però ci viene esattamente chiesto il contrario. Noi abbiamo bisogno di più persone formate esattamente perché ne ha bisogno la nostra società e la nostra economia. Senta, Ministro, ma è vero che vuole ridurre di un anno il ciclo di formazione? Quella è proprio una fake news, come ho subito detto. E tant'è che, guardi, per più ragioni. Prima perché non sono proprio d'accordo nel merito. Secondo perché essendo io, storicamente, come si dice, una persona, basta conoscere tutta la mia storia politica, molto, diciamo, avendo una visione degli sbocchi del paese, ma anche sapendo che abbiamo 5 mesi, forse ancora di legislatura, quello che, su cui sono impegnata è di attuare al meglio le innovazioni che sono state introdotte dalle deleghe, che adesso sono decreti attuativi della legge 107, e affrontare 2 scadenze che secondo me sono altrettanto importanti, che sono il rinnovo dei contratti di tutte le figure professionali del percorso e della filiera esattamente del sapere e anche quindi dei docenti universitari. Mancano solo 7 giorni all'inizio delle scuole, contenta di come si è risolta la vicenda dei vaccini? Guardi, la cosa dei vaccini, io penso che abbiamo lavorato per attuare con un chiarimento, con una circolare congiunta integrativa delle 2 circolari del MIUR e del Ministero della Salute, con quella congiunta che abbiamo fatto l'altro giorno, perché abbiamo operato per tutto il mese di agosto esattamente per facilitare le famiglie nell'acquisizione dei certificati e quindi anche l'autocertificazione è un elemento credo importante. Perché molti noi proprio dicevano che non riuscivano a prendere coinvolgimento proprio perché far vaccinare i bambini secondo il calendario vaccinale è un elemento utile ai bambini stessi e alla comunità in cui vengono inseriti. E sulle 24 ore vede che le faccio un po' di rassegna stampa, oggi c'è un editoriale di Barbara Gobbi che esprime apprezzamento per questa soluzione, però sottolinea anche che potrebbe ancora crearsi qualche problema, per esempio con la regione Lombardia, cioè con le regioni. Guardi, sto aspettando di di vedere poi effettivamente la regione Lombardia che delibera farà oggi, perché per quanto è a mia conoscenza, perché mi sono immediatamente attivata e poi abbiamo anche mandato una lettera congiunta alla regione Lombardia insieme alla ministra della salute per rispondere a una loro lettera, io ho capito intanto che non fanno deroghe, però devo vedere e dovremo vedere effettivamente la delibera che propongono, credo proprio questa mattina o oggi pomeriggio al Consiglio regionale, e però credo che abbiano anche apprezzato tutto il lavoro fatto e l'ulteriore circolare che abbiamo mandato venerdì di facilitazione, perché io avevo colto che loro volevano facilitare anche loro le famiglie e quindi anche la scuola proprio in termini di competenza. Le altre regioni, questo lo voglio dire, la maggioranza delle regioni italiane ha lavorato esattamente sulla facilitazione così come abbiamo messo noi nella circolare. Sarebbe l'unica, la regione Lombardia invece, che sceglie di fare diversamente. Spero che non sia così. Lo speriamo anche noi, allora la ringraziamo, la salutiamo, a presto, buon lavoro. Avete sentito il ministro Valeria Fedeli, 7 giorni all'inizio delle scuole, il problema dei vaccini, la grande discussione sul numero chiuso, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Mattino 8:33 minuti 41 secondi, è arrivato il momento che le masse attendono, è qui con noi il grande Oscar Giannino, buongiorno. Eccoci qua, beh, le masse, insomma, un cordiale saluto agli ascoltatori che mi ascoltano da anni su questi microfoni, un abbraccio a te che arrivi e ci fai croccantemente sentire le novità. Allora, io intanto questo è il miagolio che tutti conoscono, sarà un po' uno spazio anche di rasoiate e di graffi, questo con le tue opinioni e con gli ospiti che insieme affrontiamo. Volevo però chiederti subito, perché è caldo, perché vedo che sono arrivati tanti messaggi e qui la questione è molto dirimente, numero chiuso nell'università, l'università lo chiede, il TAR lo sospende, tu che cosa pensi, come ti poni fra questi due soluzioni non conciliabili? No, non so se sono conciliabili. Primo, o esiste l'autonomia universitaria o non esiste. Non può esistere e poi gliela revochiamo, come in caso invece stiamo facendo per la statale di Milano. Uno, perché io sono molto a favore dell'autonomia universitaria, sono a favore dell'autonomia addirittura nei curriculum della scuola secondaria, un po' come succede in Germania e Lender. Quindi c'è questo primo problema. Secondo problema, ha ragione o torto Pane Bianco? Ho ascoltato la Fedeli, il ministro con te, che ti ha risposto, ma alla domanda precisa che gli hai fatto citando Pane Bianco, secondo me non ha risposto. Pane deve Bianco anche mediare, no? No, ma soprattutto secondo me non aveva avuto il tempo, e lo capisco, perché gli stavi leggendo l'intervista in diretta. Però alla domanda, abbiamo bisogno di più laureati in generale o di più laureati nelle materie A professionalizzanti, B scientifiche? Ha ragione Pane Bianco, tutti i dati ci dicono, comparati, che per l'occupabilità dei giovani noi abbiamo bisogno di questa seconda cosa e non della prima. Terzo, è così sbagliato pensare che poi bisogna strutturare l'offerta anche a seconda del numero di docenti nel caso di una scuola non dell'obbligo? La scuola dell'obbligo si fa al contrario, come ovvio, cioè, ma nel caso dell'università secondo me non è del tutto sbagliato. Per queste ragioni, secondo me, vedremo la disposizione del TAR, il dispositivo, ma io ero d'accordo con ciò che aveva deciso il senato accademico della statale di Milano. Bene, allora, oggi c'è una questione che voglio affrontare insieme a te, c'è una grande polemica su uno spot, pensa, di una merendina, e la polemica è perché in questo spot, come sentirete fra poco, muore la mamma. Mamma, vorrei una colazione leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità. Non esiste una colazione così cara, posso un asteroide colpirmi se esiste. E qui nello spot arriva un asteroide e spianava la mammetta intenta a promettere una buona colazione. Caro Oscar, c'è qualcuno che ha protestato e questo qualcuno è qui con noi, Massimiliano Padula dell'AIART, AIART, Associazione Telespettatori Cattolici. Buongiorno Massimiliano Padula. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, lei sa che io, e si figuri Giannino, di solito siamo abituati a metterla molto dritta, ma non le sembra eccessivo, un po' anche quasi orwelliano, entrare anche in uno spot e dire che, visto in questa trama, la mamma viene colpita da uno steroide e si sta lanciando un messaggio negativo? Assolutamente, noi abbiamo espresso un'opinione, noi siamo un'associazione di telespettatori, quindi abbiamo una serie di interlocutori di cui dobbiamo farci portavoce. Le segnalazioni sono state molte e sono state negative. Cioè vi sono arrivate tante proteste? Tante proteste. E cosa dicevano? La mamma viene colpita dall'asteroide, è diseducativo, non so. Esatto, diciamo che fondamentalmente i due aggettivi principali sono stati diseducativo e di cattivo gusto, e quindi noi intorno a queste due affermazioni abbiamo poi elaborato una comunicazione, abbiamo fatto una nota stampa che è stata ripresa e quindi, come dire, ha alimentato a nostro malgrado la polemica. Ma Padula, posso fare una domanda secca? Sì, certo. Lei è in grado, vero, di giurarci di fronte a Dio e agli uomini, se non crede a Dio, che non siete pagati direttamente dall'azienda produttrice, dalla Saci e Saci, che ha ideato, per far parlare del prodotto, che è un prodotto storico, ma insomma un po' decaduto, ma che adesso si è affermato grazie a... Voi non siete pagati da loro per farne parlare di più, vero? Assolutamente no, noi siamo un'associazione di volontari, ognuno di noi ha un lavoro, ma per passione e per un po' di competenza ci occupiamo anche di questo. Quindi era perfido Oscar, dottor Padula, perché voleva insinuare che voi avete fatto pubblicità alla pubblicità. No, ma la mia domanda è, ma voi avete mai visto quei film tipo Mel Brooks, tipo i film comici? Cioè non è che l'asteroide che colpisce la mamma è la proiezione di un istinto criminoso, è una gag, è una battuta, no? Assolutamente, infatti molti hanno richiamato i Monty Python, a Mel Brooks, a Fantozzi. E allora ridete pure voi dell'Agert. Io le faccio un esempio, no? È come un incontro di box trasmesso in televisione. Un incontro di box trasmesso in televisione è pubblicizzato, è promosso, io posso accompagnarle la visione, a volte spegnere. Oppure un pugno dato così a tradimento. Possiamo parlare della nobiltà della box, dello sport del pugilato, ma c'è una debita differenza. Lo spot è stato subito, cioè improvvisamente durante una visione che magari era legata alla produzione familiare, noi ci siamo ritrovati in questo spot. C'è un po' di differenza. Io scelgo di vedere Willy il Coyote o Mel Brooks e quindi posso, come dire, attivare un meccanismo di interpretazione. Lo spot l'ho subito. E molto spesso i bambini, soprattutto i bambini più piccoli, sono impreparati alla gestione di contenuti di questo tipo. Allora, dovete sapere che non solo io, ma anche Oscar è padre e quindi sa benissimo che cosa comporta accompagnare i figli, tutelarli. Soprattutto resistere alla richiesta di merendine, è una cosa pazzesca. Esatto, la Motta ha risposto alle polemiche, o era già pronta, con questo terrificante nuovo spot, almeno dal punto di vista del dottor Padula, perché praticamente nel secondo spot della merendina arriva un nuovo asteroide e fa fuori il papà. Hai visto mamma? Gli avevo chiesto una colazione che coniugasse leggerezza e golosità. Non lo so anch'io che non esiste una colazione così. Possa un asteroide un po' più infuocato di questo colpirmi se esiste. Dottor Padula, ecco, interverrete anche su questo asteroide? No, assolutamente no. Cioè, abbiamo fatto una ma questo è il trionfo del buonismo. Scusi, se l'asteroide incenerisce la mamma, non si può fare. Se padre colpisce noi padri, va bene. Ma stiamo impazzendo. Ma almeno l'Ayart faccia, difenda tutti. La bambina è sballottolata fuori dall'inquadratura. Non si sa che fine abbia fatto la bambina. Ma vedrà cosa succede alla bambina nella terza puntata. Vedrà cosa succede alla bambina nella terza puntata. Pare ci sarà un postino nella terza puntata. Esatto. Esatto, quindi no, il nostro... 4 era un discorso generale, insomma, è ovvio che l'inopportunità della campagna comprende anche questo secondo spot. Ah, ecco, e adesso secondo me la motta dovrebbe colpire anche la bambina, che è il vero bersaglio. Oscar, vogliamo fare una riflessione su ciò che è lecito e no? Cioè, tu pensi che il politicamente corretto, e qui mi collega a un tema molto interessante di cui parleremo, cioè in America si sta arrivando a distruggere le statue di Cristoforo Colombo, perché sarebbe una rievocazione che ferisce alcune delle culture native americane. Insomma, il politicamente corretto è anch'esso una minaccia. Ma no, è una totale minaccia, scherziamo. Il politicamente corretto è una delle forme di conformismo che fa deviare di più la capacità media di ragionamento del dibattito pubblico. È una maniera di pigrizia inerziale, di adesione a temi scontati che nel tempo diventano poi quelli che vengono rimbalzati con più consenso, ma sono lontanissimi da essere ragionevoli. L'abbattimento delle statue di Colombo, di fronte ai quali gli intellettuali di sinistra tacciono perché altrimenti entrerebbero in contraddizione con l'abbattimento delle statue del generale Lee, dà l'idea di dove porti di errore in errore il luogo comune del politicamente corretto. Bisogna ragionare di volta in volta. Colombo era un genocida? Cioè, Colombo davvero può essere confuso con le strategie dei gesuiti, e non solo dei gesuiti, ma anche di coloro che poi si misero a razziare, a uccidere gli indiani man mano che si procedevano alla frontiera secoli dopo? Ovvio che no, non c'entra niente. Quindi farne il simbolo del genocidio degli amerindi è un errore storico. Ecco, temo che abbattere in generale i monumenti, tranne in eccezioni precise, secondo me le eccezioni precise sono quelle su cui non si possono avere dubbi sulla condanna storica, cioè sugli autoritarismi sanguinari. Io in questo dico destra, sinistra, nazismo e comunismo sono uguali. Detto questo, la storia è la storia. Cambiare i nomi alle strade a volte mi fa veramente ridere, e credere di fare la storia mettendo nuove dediche di strade mi fa a volte preoccupare. Dottor Padula, lei mi sembra una persona, come dire, spiritosa, di buon senso. Non sente una contraddizione fra la sua veste ufficiale, un po' di monitore, di custode, di una politicamente corretto, e questo tono gioviale che abbiamo sentito anche nel suo intervento? Ma io sinceramente non la sento. Cioè, io temo che il politicamente corretto rischi di diventare pensiero unico dominante, e questo non va bene. Noi non e che fa passare dall'altra parte della barricata? Questo no, no, no, sta sposando il nostro punto di vista. È il culmine del politicamente corretto. Assolutamente, noi non siamo censori, forse l'associazione lo è stata nel 1954, quando nacque in concomitanza con la RAI, le cosce delle gemelle Kessler. Storicamente sì, siete questi. La TV di Berlusconi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è ovvio che nell'epoca del web, della disponibilità infinita, non ha alcun senso essere censori o fare denunce che lasciano il tempo che trovano. Però stimolare al discernimento e quindi farci portavoce di opinioni che sono rispettabili e condivisibili, in questo caso dal nostro punto di vista lo sono state, ci sembra comunque un atto doveroso. Vi faccio soltanto un esempio: noi 2 giorni prima eravamo intervenuti sulla campagna dei sex toys che va in... quella è sublime. Esatto, non ci ha filato nessuno, quindi nessuno ci ha ripreso, eppure eravamo intervenuti esattamente nello stesso modo. Allora torneremo a discutere anche di quelli. Chi vuole sapere cosa ne pensa Oscar Giannino deve restare inchiodato dopo la pubblicità. Ah no, no, scusate, niente pubblicità. Allora salutiamo Massimiliano Padula, grazie. E allora sentiamo subito Oscar, i sex toys sono un problema quando diventano uno spot? Beh, cioè i giocattoli erotici. I giocattoli erotici, i coadiuvanti del sesso, i sostitutivi del sesso, possono diventare un problema. Come è noto, noi facciamo questo mestiere. Ah, tra l'altro, bisogna che noi coinvolgiamo più gli ascoltatori. Ricordati da domani, perché gli ascoltatori a quest'ora sono preziosissimi, sono una guida per noi tutti. Assolutamente. Allora, bisogna invitarli a telefonare dall'inizio della trasmissione su un paio di temi. Adesso mi sembra un po' tardi per invitare gli ascoltatori, ma detto questo, senti, noi facciamo il nostro mestiere, sappiamo che esistono temi su cui fa la pubblicità, su cui ci sono fasce protette, eccetera, eccetera. Una di quelle è sicuramente quella del sex toys. Per il resto è anch'esso un genere di consumo magari un po' meno diffuso delle merendine, perché i miei figli usano le merendine, però è anch'esso un genere di consumo verso il quale tentare di erigere obiettivi è sbagliato. Esiste un problema di fasce, questo lo posso capire. Allora, mi è arrivato questo messaggio: sono l'inventore del buon di Motta. Nel terzo spot la bambina dice che Dio mi fulmini se questi non sono segni divini, e arriverà il fulmine, e quindi anche la bambina è incinta. E a questo punto ci sarà l'esplorazione, perché l'eliminazione dell'idea di famiglia è una chiara teoria del gender, questa è LGBT. Il buon questo... di Motta contro la famiglia. Sacci e Sacci si è rivelato come al solito geniale, l'agenzia italiana di pubblicità. Allora, però parliamo invece dei temi serissimi che si sono accumulati in questo fine settimana. La puntata del lunedì ci dà la possibilità di farlo. Partiamo subito, per esempio, dal tema dell'occupazione. Oscar è stato interpretato nel modo più classico: bicchiere mezzo pieno, il più grande numero di occupati da prima della crisi, bicchiere mezzo vuoto, aumenta la precarietà, aumenta la flessibilità, le donne non lavorano, e questo fenomeno di ripresa dell'occupazione è determinato soltanto dal fatto che la legge Fornero tiene gli anziani di più al lavoro. Dove si mette il nostro gatto graffioso? Il nostro gatto graffioso dice in buona sostanza tre cose. La prima: meglio averne di più che di meno, quindi che si sia tornato a 23 milioni al livello del 2008, bene. Secondo, vediamo in questo bene, è tutto bene o ci sono dei problemi? No, ci sono dei problemi, problemi anche rilevanti. Primo, se gli occupati tornano al 2008, ma il PIL non torna al 2008 perché mancano ancora punti di PIL, significa che lavoriamo di più e produciamo di meno. La produttività resta il problema italiano, ma si dirà la produttività non vota, meglio avere più occupati e meno produttività. Io dico di no, però intanto questo. Secondo, il bilancio tra giovani e meno giovani. E qui ringraziamo ADAPT, la grande associazione che studia il mercato del lavoro, e Francesco Seghezzi, che si è messo a fare una ripartizione che l'Istat e il governo tende a non darci. Dove sono andati i totali degli occupati aggiuntivi dei tre anni del Jobs Act 2014-2017? Ecco, sono andati agli ultra cinquantenni per oltre il 50%, per il 51%. Stiamo quasi parlando di 900.000 unità di lavoro, 900.000 occupate più, al 51% agli ultra cinquantenni. I giovani ne hanno preso le briciole, cioè tra i 15 e i 24 anni sono solo il 10%, tra i 25 e i 34 anni solo il 12%. Questo secondo te perché quel modello non era costruito bene? Questo secondo me perché noi abbiamo un problema di bassa occupabilità per i giovani, ce ne siamo occupati prima, la scuola e l'università non formano, ma soprattutto per effetto della legge Fornero. Ha ragione chi fa notare, Mario Seminero e tanti altri, che siccome con la riforma Fornero abbiamo alzato automaticamente l'età anagrafica, loro restano al lavoro gli ultra cinquantenni, non è che siano diventati improvvisamente l'oggetto che le aziende si strappano di mano per assumere, è che loro restano al lavoro mentre gli altri non ne avevano più. Cioè, e questo però è un grandissimo problema. Questa è un'Italia non per giovani, nel welfare noi diamo 13 volte agli anziani con le pensioni quello che diamo ai giovani nel welfare, per la casa, per il sostegno al reddito che non hanno, e per l'occupabilità e politiche attive del lavoro. Non esiste un altro paese avanzato in cui prendiamo i giovani a calci nei denti come l'Italia. Da questo punto di vista, ultima osservazione, la decontribuzione a tempo purtroppo non ha cambiato la struttura dell'occupazione. I contratti a tempo determinato restano la prevalenza appena è finito il beneficio dei soldi. Non vanno bene queste cose. Quindi dal punto di vista della soddisfazione sì, dal punto di vista dei problemi da cambiare nella struttura degli incentivi, speriamo non più a tempo, ce ne sono tante le osservazioni. Allora, è arrivato intanto un messaggio divertente. Marco Polo dove lo lasciamo? Antesignano del VTO? E invece poi un altro ascoltatore ti saluta. E io però voglio chiederti, allora questo PIL sta crescendo perché siamo trascinati dalla crescita europea, come dicono quelli, è il bicchiere mezzo vuoto, oppure c'è un segnale positivo? Qui non è che dice Giannino, qui bisogna vedere quello che dicono gli economisti nell'interpretazione dei dati. Il più dell'andamento italiano è esattamente quello di aiutato da un ciclo generale che si sta rafforzando positivo. Noi continuiamo in questo, secondo osservazione, a crescere meno della media dell'euroarea e dell'eurozona, quindi continuiamo ad avere un problema anche quando si riparte, come quando perdevamo di più quando gli altri perdevano. E la terza cosa è che i segnali di ripresa della domanda interna, insomma, sono sempre più zero qualcosa verso più 1%, ma non ancora molto solidi, perché c'è un problema dei redditi degli italiani, dei redditi dei giovani, dei dati disastrosi del sud. Io apprezzo a Cernobbio Gentiloni che ha detto abbiamo un ritardo per i giovani, per le donne e per il sud, e ha detto i miracoli stanno facendo le famiglie italiane e non i governi. Rispetto ad altri che parlavano con ben altro tono dei propri governi, preferisco lui a dirti la verità. Allora, hai sentito forse in apertura un merlo severissimo su il primo giorno di Cernobbio, non di scuola, di Maio e di Salvini, però qui vorrei iniziare da una cosa un po' più spigolata, cioè più precisa. Non solo c'era Salvini, ma c'era anche, come sai, Claudio Borghi, che è il responsabile economico della Lega Nord e che è il padre del tema, della proposta dell'aliquota unica che è stata illustrata ieri. C'è un video anche meraviglioso di Borghi che prova addirittura a convertire Davide Serra. Che cosa pensi di questa proposta su cui la Lega dice otterremo, chiederemo flessibilità all'Europa per fare questa cosa qui? Aliquota unica, una sola aliquota di tasse per tutti quanti. Ne parlerò in trasmissione che oggi pomeriggio dalle 16 fare poi... pubblicità, ma no, guarda, è una faccio cosa pubblicità pazzi. Perché noi lavoriamo ma per fare ascolto dalle 16 alle 17 oggi ricomincia la versione di Oscar. Ma detto tutto questo, io, come sanno gli ascoltatori, ho cooperato alla proposta del 25%, non quella della Lega ma quella del Sud Bruno Leoni, che è molto diversa, è molto più articolata, non si nasconde che crea un problema di gettito e ci si pone il problema poi di come affrontarlo. Ecco, io credo che la proposta della Lega, l'ho sempre detto all'inizio, sia troppo ipersemplificata e vista la delicatezza del tema bisogna parlarne, cioè, con grande serietà. Cioè una sola aliquota è troppo perché costa troppo, invece la proposta no, Leoni... se l'aliquota è ragionevole noi diciamo sì. Il 25% non può che essere più elevata e poi soprattutto bisogna dire se costa come si fa a reperire l'equilibrio del bilancio e noi ci poniamo il problema, loro non troppo, dire la verità. Ma il punto è questo, la mia osservazione è che Cernobbio è servita per far capire che l'Eurexit, l'uscita d'Italia dell'euro, sia per la Lega che per i 5 Stelle, un conto è dichiararla nei talk show, altro conto è crederci davvero, mi sembra un passo avanti di realismo. Lo sai chi sto per chiamare adesso? E certo che lo so. Perché Alino, di fronte a me, perché mia. È mio fratello, perché gli voglio bene. La sorpresa, non è rovinato, come non è una rovinato. Divinità, una cosa cambio. Mistica. È un uomo in carne e ossa ed è per questo che noi lo amiamo. Questa oh, è la verità. Vai, il grande Alino Milan. Oscar spoiler ai finali, questa è la verità. Oscar allora, spoiler. Ma stai preparando questo incredibile show che inizia ma fra certo, poco? Certo, i funamboli si può fare pubblicità, no? Perché hai detto adesso Oscar che non ma si no, no, solo Oscar non può fare pubblicità. Allora, raccontaci cosa troveremo dentro il tuo meraviglioso contenitore. Ma intanto i funamboli siamo tutti noi, quindi tutti quelli che camminano sul filo, operai, imprenditori, disoccupati, migranti, racconteremo l'Italia dei funamboli, tutti bello, quelli che, funambolici. Funambolici, e quindi racconteremo di cronaca, attualità, costume, società. Con noi ci sarà Veronica Gentili e avremo lo sguardo dissacrante di un comico come Leonardo Manera, quindi ecco, Manera. Si riderà anche. Ma quindi non è no, perché... di interviste ai segretari politici, perché i funamboli credevo no, no, no, vorremmo parlare di qualcosa che interessa più di due persone, quindi Alino, so che c'è un personaggio, almeno racconta qualcosa di inedito, c'è un personaggio nuovo lì dentro, Leonardo, c'è un politicone, interpretato da Manera in modo sublime. Ma sì, non voglio anche qui spoilerare molto, però lui farà un po'... Siete proprio... quasi lanceremo un partito, vi dico solo questo. Ecco, vabbè, diciamo almeno il nome, dai, racconta il tormentone. Non lo so, adesso stiamo decidendo se chiamarlo il partito del nulla. Oppure qualcosa di diverso. Secondo me il partito del nulla potrebbe volete vincere, bello, volete vincere le elezioni. Infatti, partito del nulla potrebbe essere il PDN. Il PDN ha dichiarato il leader del PDN esatto. Alino Milan. Il partito del nulla. No, adesso vediamo se mettere Leonardo. Stiamo facendo. Vediamo capire se fare le primarie. Esatto. Per scegliere. Sì, il ma candidato di qualcosa premio. Su cosa fa questo politico, perché sennò non ti seguono. Il nulla. Il partito del nulla promette cose che promette, insomma, poi dopo promette vince le elezioni, e poi parla bene di tutti parlandone male, ecco, voglio dire io che l'ho sentito. Questo è un altro personaggio, avremo il direttore di un giornale molto molto autorevole, lo Zerbino del Mattino, okay. Che, insomma, ecco lo Zerbino importante che parlerà di tutti i politici, li giudicherà insomma col suo stile molto pungente, molto lecca. Ma quindi questo è un programma di satira sociale? No, ovviamente parleremo anche di grande attualità. Oggi parliamo di abusivismo edilizio, visto che siamo il paese degli abusivi. Parleremo anche della vicenda di Rimini, gli stupri. Ci chiederemo se davvero più stranieri portano a più stupri, perché questa è la domanda che è finita sui giornali la scorsa settimana. Insomma, parliamo anche di cose molto serie e profonde del nostro paese. Bene, Oscar, ma che cosa, come rimpiangi questo? Di qualcosa su questo rapporto meraviglioso, quasi coniugale, che avete avuto in questi anni. Quasi carnale, significa abbassarlo. Cioè, i grandi rapporti profondi, no, perché i rapporti coniugali sono rapporti di amore, quindi, come tutti i rapporti di amore, sono fatti di contrasti. Carnale, i rapporti di fratellanza e di amicizie profonde, perché si ha un'idea, guarda, nessuno ci crede da fuori, ma l'idea che abbiamo dell'Italia e degli italiani è molto più simile di quanto abbiamo fatto credere andando in onda, conferma oppure no, naturalmente liberamente, assolutamente, assolutamente così. Infatti carnale, abbiamo questo patto di sangue proprio col sangue, il taglietto sul col dito, sangue, insomma. Taglietto che ci chiede l'azienda, ma noi lo diamo volentieri, questo lo diamo volentieri. Ma tu, Luca, che ora ti sei svegliato? Sono curiosissimo. Guarda, mi sono svegliato alle 4:30 perché avevo il terrore di non svegliarmi, però battuto. Poi dopo mi quando ti passa che rischi di arrivare in ritardo, è il terzo giorno che arriva la Biocco. Va bene, allora noi torniamo domattina. Adesso inizia il grande show di Alino, i Funamboli. Per chi vuole mandarmi un messaggio, una critica, una recensione, oggi in via eccezionale do il mio telefonino 339 268 5546. Scrivetemi e così mi aiutate a mettere a posto il calibro. Ciao.